mentalmente se si collega qua. Poi apriamo lo stesso fisheye, proviamo ad andarlo a cercare sto pacchetto. Gli altri due ci sono? Lasciamo questo indietro, vediamo se c'è il suo. belle tutti in SIAG. Va bene. Beh, ma se apri anche quello lì dell'ultimo tac, guarda quante righe c'ha pure thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Non sappiamo cosa scegliere. Non sappiamo che scegliere. Che gusto ci piace, boh. Ha messo il Perdindirindella. Sapete che c'è? A fumare, no, coffee basta, vado a fumare. Ci vediamo fra poco.